Carissimi amici di Ludico Forum, questa è la puntata in podcast andata in onda sul canale YouTube di Dietrologia Videoludica, dove insieme a Francesco Di Muro abbiamo parlato di Disco Elysium, tutti gli annessi e connessi e quelli che sono il baraccone, insomma, tutto quello che è successo successivamente alla pubblicazione, la grande guerra, la grande lite, e insomma cercando di fare il quadro più completo possibile. Spero che questo episodio vi interessi e insomma vi faccia piacere. Comunque fateci sapere la vostra e sigla. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici, benvenuti a questa prima live in questo canale che potrei definire redivivo. Questi sono delle trasmissioni che faremo durante le prossime settimane, tendenzialmente di lunedì. Ogni lunedì cercheremo di farne una, ne abbiamo già programmate alcune, andranno chiaramente nel podcast di Ludico Forum, ma come produzione YouTube ovviamente saranno qui live sul canale di Dietrologia Videoludica. Dietrologia Videoludica è un podcast che facevamo tantissimo tempo fa, l'abbiamo anche utilizzato come canale YouTube. Se vedete, andate un po' a ritroso su quello che è il feed di questo canale YouTube, troverete tantissimi video meravigliosi, compreso quello di Deadly Premonition, che è insomma un video che ha riscosso tantissimo successo perché noi lo abbiamo insultato e molti si sono indignati di questa cosa. Comunque, prima di entrare nel vivo di questa puntata, vi ricordo che Runtime Radio abbandona, diciamo, temporaneamente l'aspetto radiofonico e diventa una sorta di radiotelevisione, perché durante la prossima, insomma, nel prossimo periodo ci saranno diverse live qui su YouTube. In particolare domani sera ci sarà questa meravigliosa live sulla storia della prima animazione 3D della storia della CGI, della storia del computer, insomma, tutti quelli che sono poi risvolti che ne hanno insomma, che ha portato in senso positivo ovviamente questa grande rivoluzione. Mentre venerdì sera, per la prima volta live e su YouTube, ci sarà la grande coppia del podcast che insomma ci ha sorpreso, diciamo, a tutti quanti con insomma questo podcast che loro fanno, Ho Visto Cose, dove fanno recensioni ovviamente un po' a sdrubbale. E quindi venerdì sera 21:30, tutti gli orari sono sempre alle 21:30, troverete ovviamente questo meraviglioso, cioè questa meravigliosa live insieme insomma a Olivia e Marco. Con me in questo episodio, per parlare ovviamente di questo meraviglioso argomento, c'è il grandissimo Francesco Di Muro. Ciao Francesco. Buonasera. Ecco, prima si sentiva meravigliosamente, adesso improvvisamente fa schifo. È bellissimo. Che devo fare? Ah, ecco, forse devi un po' alzare la cucina o avvicinarti, insomma. Che bel quadro dietro. Mi devo accontentare con il microfono del computer, non con quello professionale, perché si è rivelato non professionale più oramai. Diciamo che ha fatto il suo tempo. Come tutte le cose fanno il loro tempo. Allora ragazzi, intanto sia Ludico Forum che Dietrologia Videoludica, anche se a suo tempo come podcast, oggi come canale YouTube, fanno parte del grande progetto Runtime Radio, che è insomma un collettivo di persone che insomma stanno lì e producono contenuti per le persone come voi che ci ascoltano, insomma gli amici che ci vogliono bene e ai quali noi ovviamente vogliamo altrettanto bene. Considerate che questo è un periodo un po' particolare per Runtime Radio, perché stanno cambiando tantissime cose nel mondo del podcast e quindi c'è maggiore difficoltà nel riuscire a rimanere a galla. Insomma, se volete fare una donazione e sostenere il nostro progetto, noi siamo assolutamente ben contenti. Giusto Francesco, tu sei contento, no? Sono sempre contento. Tu sei contento, guardate. Non lo dimostro sempre, ma sono sempre contento. In realtà sei più contento di quanto tu non dimostri di esserlo, insomma, questo è la cosa. Ringraziamo anche Alex Raccuglia. Intanto il QR code, se volete donare a Runtime Radio, ve lo lascio lì su in alto, così insomma poi eventualmente insomma vi dovesse venire proprio lo schiribizzo, insomma noi siamo assolutamente felici di questo. Stavo dicendo, ringraziamo Runtime Radio per il nuovo logo di Etrologia Videoludica, che ovviamente poi tutta la grafica del canale YouTube piano piano cambierà, insomma, anche se ancora non ci abbiamo avuto il tempo. D'altronde noi stiamo facendo tutto questo in maniera del tutto insomma simpatica, giusto per. E non c'è ancora nessuno in chat, quindi io direi a questo punto Francesco, prima di iniziare volevo un attimo puntare un po' l'attenzione su di te, perché tu avevi un progetto che poi forse, perché insomma qui sempre il forse è sempre d'obbligo, dovrebbe tornare insomma in auge anche qui su questo canale di dietrologia videoludica e poi ovviamente sul podcast di Ludico Forum, ossia praticamente nelle cervella di una gamer. Poi cambi in base a una persona come si attribuisce, perché noi vogliamo essere gender rispettosi, soprattutto in questo mese particolare, che è il mese del gender rispettoso. Ok, famoso. Il mese mondiale del gender rispettoso, che è un po' come il poliziotto dispiaciuto, il Sorricop. Sorricop. Niente, era partito, diciamo, questa live che ho fatto sul mio canale Instagram, con le limitazioni notevoli e pesantissime di Instagram. Però a questo punto ho detto, visto che in questo momento stai ripubblicando quelle 5 puntate che feci sulle cervelle di videogame, in cui si vuole esplorare un pochino come un videogioco per una persona ha impattato sulla sua persona, che insegnamenti ne ha tratto, come psicologicamente l'ha influenzato, l'ha cambiato, se l'ha cambiato, perché l'ha cambiato, e quella quando quando presta il fianco si parla di psicologia, neuroscienze, queste cose. Quindi un contenitore fatto di interviste, ma che vuole avere uno scopo sia divulgativo sia comunque per i videogiochi un'ottica positiva, psicologicamente positiva. Ho fatto queste 5 puntate, poi non ne ho fatte più, però a questo punto ho detto, visto che sta prendendo, ho avuto dei feedback positivi da quando sono state pubblicate sul Ludico Forum, ho detto, ma a questo punto facciamone altre. Quindi già mi sto mettendo d'accordo con qualche ospite, e però a questo punto fanculo Instagram, infatti non lo sto usando da mesi proprio, neanche per condividere storie o roba. Facciamo direttamente qui su YouTube, facciamo le robe professionali direttamente anche su Ludico Forum, con i canali di Runtime, quello che sarà. Sì, anche perché adesso l'abbiamo pagato, quindi cerchiamo di sfruttarlo. Abbiamo pagato, esatto. Tra l'altro ricordiamo appunto che su Ludico Forum, quindi sul feed di Ludico Forum, che è ripartito con una terza stagione, che in realtà è una sorta di contenitore di format, non è più un vero programma, un vero podcast di videogiochi in sé, cioè raccoglie tutta una serie di cose che stiamo facendo durante questo periodo, che abbiamo fatto recentemente, e infatti Francesco stiamo inserendo ovviamente le 5 puntate che lui ha fatto. Poi chiaramente il fattore Instagram lì è un po' penalizzante, perché l'audio a volte è decente, a volte e il video no? No, vabbè, però il video noi la pubblichiamo in audio, ce ne frega del video, è vero. A meno che non li vogliamo caricare qui su dietrologia videoludica, noi pubblichiamo tutto. No, ma tutto fa brodo, come dice. Però pensavo comunque le prossime eventuali puntate di farle anche live, se poi certo, in podcast per la gente che poi Diciamo in generale quello che succederà su questo canale sarà live, e poi andrà a finire ovviamente nel feed di Ludico Forum. Insomma, in generale, diciamo, questa è la tendenza. Poi insomma, magari saranno delle determinate eccezioni, così come domani sera con Archeologia Informatica la live verrà comunque registrata al meglio delle condizioni e poi andrà chiaramente sul feed di Archeologia Informatica. Allora, Disco Elysium, iniziamo a parlare poi, Gemmo, fino a mo' abbiamo chiacchierato. Disco Elysium, noi già è tipo la terza volta che ci troviamo a parlare di Disco Elysium. Perché? Perché ci ha colpito, diciamo la verità, insomma, alla fine. A te in particolare, a tutti e due all'inizio, solo che tu in maniera più approfondita, perché hai avuto modo comunque di apprezzarlo, mentre io quella possibilità inizialmente non ce l'avevo. Quindi è un videogioco che alla fine è passato per tante sfumature, tanti passaggi, no? Cioè la creazione, l'uscita, molto dirompente, questa cosa innovativa tra gioco di ruolo e avventura grafica, questo linguaggio molto evoluto dal punto di vista letterario, che però ovviamente non era alla portata di tutti, e poi ovviamente c'è stata questa mod, questa sorta di sperimentazione fatta con Dipl, che praticamente ha tradotto a man bassa completamente tutta l'infinità di testo che era ovviamente all'interno del gioco, rendendolo in italiano chiaramente con tutti i limiti oggettivi del caso, che per quanto si perdeva tutto l'aspetto magari strettamente letterario, alla fine comunque almeno non si perdeva il senso, il significato artistico, insomma, dell'opera. E quindi alla fine l'ho giocato pure io, altrimenti non l'avrei mai giocato, perché poi con Francesco ti era venuta l'idea, dice no, ci colleghiamo su Skype e lo giochiamo insieme su Discord, e ho detto sì, ma è un gioco di talmente tante ore, è talmente anche personale poi come gioco, no? Se sì, sì, sì, è vero. Sarebbe stato un po' complicato, ecco, molto complicato, meno male che... Ecco, dici no. Qualcosa tu su questo gioco, che poi alla fine, come detto, abbiamo già parlato, però... Insomma, è anche carino, no? Magari fare qualche accenno, insomma, su quella che è stata la tua esperienza, e poi anche cercare di capire perché questo prodotto è stato così originale, così particolare, diciamo. È stato originale e particolare innanzitutto direi per il gameplay, anche se è una cosa quasi scontata, nel senso che per quanto la gente viene spesso classificato ha ragione che questo misto tra avventura grafica e gioco di ruolo in realtà è semplicemente un'esternazione, diciamo un'estremizzazione di quello che è diciamo un gioco di ruolo vero e proprio, cioè scevro dalle meccaniche dei combattimenti praticamente, perché è un gioco praticamente privo di combattimenti, o meglio non c'è un meccanismo di combattimento, diciamo, altri combattimenti ci possono essere, sono più dei combattimenti mentali, dialettici tra virgolette. Però comunque un videogioco dall'alto potenziale interpretativo, proprio come sono i giochi di ruolo cartacei, perché offre talmente tante possibilità di scelta, di flessibilità, di adattamento, poi per le tante caratteristiche, le diverse ramificazioni, le diverse modalità con cui si può giungere. Scusa, vai, scusa che è partito l'audio. Sì, sì, le varie ramificazioni, le varie abilità anche che si possono ottenere, tutti i diversi spunti che lo rende davvero una partita diversa dall'altra, nonostante bene o male non sia proprio ultra open. Cioè questa è la cosa bella, la vera interpretazione, cioè di non fare dei giochi su dei binari separati, ma giochi su cui bene o male il binario è quello, ma che puoi viverlo diverse comunque esperienze, sfumature sulla base delle tue scelte, dell'abilità, di tante cose, e soprattutto in questo mondo molto molto molto complesso di cui, come quando parleremo un pochino di tutta sta vicenda che è saltata fuori ultimamente, cioè, lo sviluppo di questo gioco non inizia proprio quando, da pochi anni, ma saranno almeno 20 anni che bolle in pentola nella testa dei creatori, in particolare del creatore principale Robert Kurbitz, e che l'ha costruito mano a mano nel corso del tempo con gli amici e gente, diciamo, dei centri aggregativi sociali, queste cose qua, quindi. Ed è molto frutto proprio sia dal punto di vista geografico che storico. È storico proprio del paese dove è stato creato, cioè in Estonia, che ricordiamo comunque, cioè, si respira molto questo posto sovietismo, sì. Mai sopito da un certo punto di vista, cioè anche tematicamente, cioè, lo vedo un po', diciamo, tematicamente Disco Elysium un pochino un pastiche di quello che è il mondo moderno. Un pastiche vuol dire una sorta di omaggio / imitazione, nel senso che vedi che è molto, diciamo, simile al mondo che viviamo attualmente, ma c'ha tante differenze, diciamo, ecco, questo è Robert Kurbitz, ha tante differenze sostanziali, però è qui possibile comunque ricollocare sia a livello di ideali, sia a livello di entità, diciamo, statali e altro, cioè ha dei richiami multipli, diciamo, a quello che è il mondo moderno, diciamo. Quindi è interessante, con le proprie differenze anche tecnologiche e altro, però comunque a livello di moda, di tutto, è qualcosa di molto simile a quello che è il mondo odierno. Sì, che poi la particolarità anche era proprio questa, no? Che comunque al di là del contesto fantasioso, no? Cioè, quindi questa ricostruzione sociopolitica particolare, comunque realistica ma non aderente, no? Cioè, nel senso, comunque non direttamente riconducibile a una sola identità magari nazionale, e alla fine comunque stiamo parlando di una storia che è molto concretizzata nel realismo, no? Ed è una storia profondamente umana, poi fondamentalmente, che comunque è la storia di una persona, come dici tu. Poi alla fine magari non è un open world, cioè nel senso non c'hai la totale libertà che potresti avere in un gioco di ruolo, però è la libertà nell'interpretazione, cioè nel senso che comunque tu quello è che è libertà per me comunque è libertà, comunque a volte, cioè per alcuni versi è molto più libero, cioè, rispetto, che ne so, un oblivio, non qualcosa in cui, certo, certo, no, perché in più modo nell'altro devi combattere, capito? Sì, sì, no, perché no, ma al di là del combattimento in sé, che ok, sono d'accordo con te al 100%, però dice, invece di andare in mille posti a casaccio, io ti do un diciamo un recinto nel quale ovviamente c'è anche una certa, tra virgolette, linearità della narrazione, ma in quel contesto, cioè all'interno di quella narrazione, c'è un'infinità, no, di sfumature, di possibilità che dipendono un po' dall'interpretazione che dai te e anche dalle caratteristiche del personaggio, perché chiaramente certi dialoghi possono essere affrontati solo se il personaggio è in un certo tipo piuttosto che in un certo, di un altro tipo, no? Quindi poi alla fine, ecco, la meccanica è l'estensione del concetto d'avventura grafica all'interno di un di una struttura così radicata da gioco di ruolo, no? Che significa milioni di righe di testo e ovviamente una struttura narrativa con i controcazzi, insomma, che poi è quello che alla fine ha riscosso tanto successo, no? Inaspettatamente, perché un gioco come questo, un gioco che dall'esterno è molto comunque difficile, molto poco accessibile, però nel frattempo ha avuto, oltre ad aver avuto molto successo, mi pare che attualmente per il valore che hanno, comunque su Metacritic c'è tipo il 97% di voti positivi, che uno, cioè, praticamente giusto sotto gli Zelda, perché deve essere per forza 100%. Sì, vabbè, poi Metacritic poi c'è il tempo che trova, insomma, diciamo, però che okay, sì, è sì, comunque sì, importante, comunque qualcosa di notevole, sì. Nato da comunque uno studio relativamente indipendente, cioè a modo suo indipendente, anche se comunque ha avuto degli investimenti importanti delle persone importanti, ma ne parleremo fra poco più o meno nel dettaglio. Quindi è stato comunque qualcosa, non dico inaspettato, comunque incredibile, comunque ha colpito molto, diciamo, anche se rendeva palese, rendeva molto palese le proprie ispirazioni, sia dal punto di vista videoludico che tematico, cioè videoludico sono ispirati grandemente, cioè i classici isometrici che si facevano come Baldur's Gate, certo. Ma soprattutto Planescape Torment è proprio un omaggio, cioè palese, sì. Cioè non è che l'hanno nascosto, sono, cioè, delle fonti di ispirazione esplicite come Planescape Torment. Infatti questo si può dire una sorta di seguito spirituale, diciamo, non seguito spirituale, comunque di successore, diciamo così, successore. Allora, guarda, non è un seguito spirituale perché no, non lo è, non è un erede, no. Forse possiamo dire un erede, un pochino quello porta la legacy, no? Cioè nel senso comunque di quel tipo di impronta che poi alla fine, come è stato un unicum, Planescape Torment è un unicum anche Disco Elysium, e forse è stato forse anche più originale, più più originale e più coraggioso, più, diciamo, coraggioso. Perché il problema principale, diciamo, di Planescape Torment, perché vabbè, all'inizio sì, capolavoro assoluto, però comunque col tempo se davvero ami qualcosa devi riconoscere anche i difetti. Il difetto principale, si può dire, di Planescape Torment, che non hanno avuto il coraggio, essendo comunque un IP di Dungeons and Dragons, non si sono potuti spingere così tanto da sottrarre il combattimento, che era piuttosto superfluo anche, diciamo, rispetto ai Baldur's Gate e altri, anche molto meno riuscito a livello di meccaniche, anche se è la stessa cosa. è molto basato più sul dialogo, sull'interazione, sulla scoperta, su sull'interpretazione appunto di un personaggio che anche qui, anche in Planescape Torment, personaggio che non sa più chi è, ha perso la memoria e deve un pochino ricostruirsi. Anche qua è un personaggio che alla fine deve ricostruirsi perché ha perso la memoria. Per quanto possa, questo ne parlavamo nella prima puntata di Nelle cervella di un gamer, andatelo a recuperare, perché si parla proprio di Disco Elysium. Se è un cliché, se uno dice ah, che palle, sembra la solita cosa, però i cliché non sono di per sé un problema, è come li gestisci in cliché, cosa ti porta poi a fare, certo, cosa ti porta un cliché. Anche perché sì, poi comunque io alla fine, nonostante tutto, ho apprezzato molto più il Disco Elysium, paradossalmente. No? Adesso qualcuno dirà oh, come sì, ti permetti, però insomma, ma perché ci sono solo io in video? Aspetta, voglio vedere anche te. Ecco, eccomi, sì, guarda, sono qua sotto. Anzi, sono qua sotto. Sì, sì, no, dai, metti qualcosa di più equilibrato, dai. Ma no, mi piace questa cosa che tu sei il magister. A me no, però ok, il magister. Bene, comunque alla fine, comunque, se proprio vogliamo andare a, insomma, entrare un po' oltre l'originalità, a parte la quantità di testo, la struttura, la narrativa, che comunque e per un progetto come questo veramente è estremamente complessa, cioè forse è la cosa che vuole, infatti hanno faticato tantissimo, immagino, immagino, perché molti hanno fallito in questo, spremuti, no? Cioè, nel senso, spremuti fino a... in quanti hanno fallito, sì, in questo, insomma, è veramente innumerevoli. Però poi alla fine è anche un po' il tipo di produzione che forse va un po' anche recappata, diciamo così, no? Eh sì, infatti, se vogliamo fare giusto un riassunto, dobbiamo partire, perché mai, forse come in questo caso, ma in realtà anche in diversi casi, però in questo caso lo sviluppo, la realizzazione di questo gioco, cioè non si può non parlare di questo senza parlare dei creatori, di chi l'ha ideato, cioè comunque è un legame quantistico. È un legame, parole a caso, allora. Sì. Come, le uso altra gente, non ne posso sapere io. Ho, certo, un legame comunque indissolubile con quello che sono i suoi creatori, in particolare sì, Robert Kurtz, che stiamo vedendo, perché ha passato buona parte della sua vita praticamente a ideare questo gioco, anche se inizialmente non doveva essere un gioco, è stato più un'idea proprio degli ultimi anni di farne un gioco. Però se vogliamo ricapitolare un po', praticamente Robert Kurtz Essen di Tallinn intorno agli anni 2000 faceva parte, diciamo, di sto gruppo, diciamo, di anarchici, di gentaglie che si chiamavano gli Overcuts, in cui faceva parte di bassa morale, sì, in cui sì, che facevano un po' gli artistoidi, queste cose qua, però soprattutto giocavano di ruolo, ma tipo che stavano, si facevano le chiuse proprio, che tipo uscivano solo per mangiare, dormivano, facevano i turni, e lui aveva iniziato con Dungeons and Dragons, ma poi piano piano ha iniziato ad elaborare, diciamo, a costruire questo mondo, diciamo, alternativo, che è quello che mano a mano hanno iniziato, diciamo, sono stati i mattoni che mano a mano hanno costruito quello che è il mondo, diciamo, di Disco Elysium. E una cosa che viene sempre riconosciuta è che è una caratteristica particolare che spesso gli viene riconosciuto comunque a Kurtz, di essere comunque una persona che dal punto di vista narrativo è quasi impareggiabile, come Dungeon Master era davvero era davvero molto abile, cioè nel creare, nel narrare storie, una persona comunque molto carismatica, molto accentratrice, diciamo così. E successivamente lui, vabbè, incontra anche quello che è poi il direttore, diciamo, artistico, responsabile, l'artista, diciamo, grafico di Skellism, cioè che è Alexander Rostov, e insieme poi creeranno quello che è una sorta di collettivo intorno, diciamo, agli anni 2009-2010, che è un altro collettivo che si chiama Zaum, che è il nome, diciamo, più di questa di questo collettivo, diciamo, di artisti, di questa quasi associazione culturale, no, è una vera e propria associazione culturale, che le loro opere confluivano tutto in un blog che mi pare che è attualmente ancora visitabile o meno. E a questo blog poi col tempo si aggiunse anche quella che all'epoca era ancora minorenne, Helen Hindper, che praticamente è stata una delle principali scrittrici, nonché non ho capito se anche attualmente o per un po' di tempo compagna di Kurbitz. Kurbitz inizialmente però decide di fare più che di un gioco, lei ha detto che voleva farne un libro, infatti ne venne fuori un libro che non è uscito fuori dall'Estonia, si chiama Area Sacra e Terribile, che vendette tipo 1500 copie e stop, e lui dopo questo fallimento diciamo andò in totale depressione per diversi anni, per 2-3 anni, alcolizzato a bestia e stesse fine qua. Poi ha cercato di risollevarsi. Una cosa che non ho detto comunque, però una cosa che magari si dice quando mettiamo un pochino il video in video, ripercorriamo di nuovo almeno in video le persone, lui comunque ha stretto contatto con Kaur Kender, che è una persona diciamo molto nota in Estonia, che è uno scrittore imprenditore che aveva fatto sto libro, che è stato molto scalpore, che addirittura era stato diciamo citato in giudizio per pornografia, però alla fine ad aprì molto un dibattito in Estonia sulla libertà di espressione, su quanto è vero, quanto è legittimo o meno queste cose qua. Alla fine però comunque fu dichiarato non colpevole, però comunque è una persona particolare diciamo così, e lui un pochino aveva finanziato, diciamo l'aveva accompagnato diciamo a Robert nella scrittura e nella pubblicazione. Poi successivamente, dopo il fallimento dell'opera letteraria, fu stesso lui, questo Kaur Kender, a proporre: ma scusa un attimo, perché non ci fate un bel gioco, un bel videogioco? E preso subito la palla al balzo e si misero a creare questo videogioco, inizialmente creando un'associazione che si chiamava una software house diciamo così, che si chiamava Fortress Occident, che un pochino viene parodiata, se ci fai caso, nel gioco stesso, nell'area commerciale maledetta, quella del gioco, ci sono tutti questi documenti di questo tentativo di creare questo gioco diciamo molto molto ambizioso, che doveva avere migliaia di personaggi, di ramazioni, e alla fine è totalmente fallito. Un pochino anche Disco Elysium c'aveva delle ambizioni potenti, grandissime, il gioco cioè doveva essere, se non mi ricordo se tutto il mondo, comunque tutta la città di Revachol si poteva visitare, finali multipli, roba rocambolesca. Poi però invece meglio concentrarsi su una cosa fatta bene piuttosto che sì. Poi in questo entrarono molti altri investitori, ma è una cosa che viene fra poco eccetera eccetera. Comunque si lavora sul gioco, esce nel 2019 e un paio di anni dopo esce anche la Director's Cut, però all'improvviso, quasi l'anno scorso ottobre, viene comunicato diciamo tramite uno dei membri originari della ZAUM, associazione culturale, perché poi hanno creato ad hoc anche proprio una software house, sono due entità distinte. Annuncia praticamente la dissoluzione dell'associazione culturale e che i principali responsabili creativi, cioè Kurbitz, Rostov e Indper, mi pare anche lui stesso, erano stati diciamo licenziati diciamo, e non erano, anche se già un pochino non ci lavoravano già da diversi anni, ed erano stati allontanati dalla compagnia, e da qui è iniziato un pochino un attacco mediatico, cioè sia tra la ZAUM, tra il CEO della ZAUM, che è il Mar Compus, e queste persone che sono state allontanate, di accuse vicendevoli sempre più pesanti. Cioè il Mar Compus li ha accusati che li ha allontanati perché hanno cercato di sottrarre indebitamente la proprietà intellettuale e di comunque avere dei comportamenti scorretti, di non essersi quasi, non aver praticamente più lavorato negli ultimi 2 anni, mentre Kurbitz e altri accusano comunque di aver essersi indebitamente acquisito la maggior parte, essere diventato praticamente tramite una scatola, tutti dei meccanismi, diciamo, complessi, diciamo, di società contro società, di essere diventato il socio maggioritario, praticamente l'investitore maggiore, eccetera, eccetera. Quindi capitalismo cattivo, ecco come. Aizzando anche, diciamo, molte persone contro il fatto, cioè sto paradosso di un gioco in cui si parla molto del capitalismo, si può dire, riassumendo molto, anche se è molto davvero riassuntivo, è molto davvero, non darebbe giustizia al gioco, è un gioco piuttosto, diciamo, di tematiche anticapitaliste, diciamo, e praticamente sembra che sia finito poi sia finito vittima proprio di meccanismi perversi del capitalismo. Certo, e questa è la grande contraddizione alla fine, no? Sì, questa è la grande contraddizione, e soprattutto, cioè, dalle accuse si è passato anche alle botte. Al tribunale, infatti, nello scorso maggio c'è stata un'udienza, soprattutto perché Gorbiz ha chiesto di essere stato allontanato, anche perché ho chiesto, diciamo, i documenti finanziari dell'azienda, e dopo questa richiesta era stato allontanato. Documenti che non ha ancora visto, e diciamo che ora c'è un processo per decidere quanto o meno sia legittima da parte sua, diciamo, accedere a questi documenti finanziari, anche perché se da una parte si può dire che comunque ancora potrebbe avere accesso, se gli avvocati di Gorbiz dicono ha diritto di avere accesso perché ha fatto parte dell'associazione, detiene ancora un pochino delle quote, diciamo, nella società, e invece gli avvocati di Ilmar Kompos, che ricordiamo, diciamo, è il capoccia attuale, diciamo, della ZAUM, dice che non ne ha diritto, anche perché nel frattempo loro, Gorbiz e altri, si sono creati la loro bella software house, e hanno registrato per ora un marchio Corinthian di un ipotetico gioco, e quindi dice, se dargli accesso a questi documenti finanziari gli darebbe comunque un vantaggio piuttosto indebito, diciamo, sfavorevole al loro confronto. Quindi, diciamo, per ora, diciamo, il giudizio finale, che il giudizio che spetta al giudice, è stato rimandato a settembre, verterà su questo. Però comunque la storia è molto molto più complessa, molto più nebulosa, e soprattutto, diciamo, allora lo spunto, diciamo, di questa diretta ci è venuto da un video molto lungo di vera e propria inchiesta giornalistica videoludica pubblicato da un bel canale inglese, di lingua inglese, che si chiama People Make Games. Se vuoi condividere il video, se vuoi favorire a favore di telecamera, che praticamente hanno cercato di ricostruire quanto più possibile. Questo mi sta facendo vedere un'altra cosa, aspetta un attimo, no, mi sono confuso io, ho aperto un'altra finestra, scusami. Ecco qua, ha cercato comunque di ricostruire in modo molto dettagliato, infatti se vedete qua un video di 2 ore e mezza, cioè un documentario proprio a tutti gli effetti, è praticamente un documentario, ed è tuttora il video più complesso, più lungo che loro hanno fatto. Ci sono dedicati davvero anima e cuore, sono andati davvero a Tallinn a sentire le udienze, se sono volati in Estonia, Londra, in America, negli Stati Uniti, hanno fatto davvero il giro, c'è stato un lavorone dietro, e finora, diciamo il documento, diciamo, il contenuto più completo su tutto quello che è questa. Allora, diciamo che a posteriori questo video, che chiaramente rimarrà sul canale, poi metteremo ovviamente il link nelle note. Assolutamente, perché, cioè, il plauso va a loro. Diciamo, in questa ultima ora che ci rimane, diciamo, un pochino me lo so studiato, alcune cose mi rimangono nebulose, perché è davvero un video molto molto lungo, molto complesso, in cui poi vengono intervistati sia il Mark Kompos che il trio creativo, che altre persone che, sapendo che c'era, diciamo, stavano indagando su quello che era successo, sono poi, li hanno contattato stesso loro, persone della compagnia, per dire la loro, diciamo, dire la loro. Ed è una questione davvero in cui, cioè, molto molto complessa, cioè, per quanto dire, quando si dice davvero il mondo è una cosa complessa, in cui viene facile dire quelli buoni e quelli cattivi, oppure in base a quello che ti dice una persona emerge, diciamo, questa distinzione, quando in realtà, come sempre, non è così lineare la situazione. Allora, Sì, che poi no, diciamo che non è che sì, non è che ci dobbiamo fare una tesi di laurea, no, dobbiamo fare un quadro un po' ma quanto più, più diciamo comprensibile, no, di che, rispetto a quello sì, che abbiamo capito noi, perché poi sì, sì, poi nel frattempo si può vedere che questo è Carl Kender, lo scrittore, diciamo, che mentre è in tribunale si fa giudicare, eccetera, eccetera. Qui, infatti, quando parla del fatto di Fortress Accident, e comunque, quindi percorriamo un po' le file. Quindi siamo arrivati che la Zaum, praticamente, ok, facciamo sto gioco, prima Fortress Accident, poi dicono vabbè, cerchiamo degli investitori e facciamo le cose serie. Carl Kender inizia, diciamo, a mettere la sua quota vendendosi una Ferrari che era appartenuta a Dolph Lundgren, che è questo che faceva di spiezzo in due, praticamente. Poi viene richiamato questo, uno dei più grandi, diciamo, dei più grandi ricconi, questo Marcus Lineman, che è uno che possiede diverse televisioni, diversi canali, un pochino in tutti i paesi baltici in realtà, che ci mette buona parte dei soldi, quasi più dell'80%, tutta dell'83%. Quindi questo, diciamo, è il capitale iniziale dei soldi. Però quasi subito dopo viene richiamato il Mark Hombus, che oltre che anche questo un investitore di, che è praticamente un capitale di rischio, quindi un investitore anche lui in varie diverse società per tutto Tallinn, però lui nel passato ha la cosa sospettosa è che lui nel passato, diciamo, ha avuto a che fare con questo Tony Savell, avevano una società insieme, Coa Capital. Ed è curiosa questa, diciamo, questa conoscenza, perché questo Tony Savell, diciamo, in passato, diciamo, negli ultimi tipo 10-15 anni fa, aveva convinto insieme ad altre tre persone, aveva convinto, diciamo, diversi altri investitori a metterci più di 10 milioni di euro per comprare, diciamo, dei terreni a Baku per poi costruirci robe e rivenderli per denaro. Solo che sti soldi pare che non siano mai arrivati a Baku, quindi processi su processi, lui è stato espropriato di tutto e è dovuto fuggire in Lettonia per evitare di pagare il resto, perché ora, diciamo, ha fatto ricorso perché era stato condannato, la condanna gliel'hanno tolta in carcere, però comunque gli è rimasto che deve pagare più di 7 o 10 milioni di euro indietro. Madonna, che storia assurda comunque. E comunque, ripeto, quindi entra il Mark Hombus, che ha avuto, diciamo, questo rapporto con sto tizio, con sto Tony Savell, poi comunque ha approfittato un pochino del fatto, diciamo, quello che un pochino viene chiamato una sorta di turismo fallimentare, un pochino un baco che esiste in Europa, nel senso che la gente magari emigra da un altro paese e dichiara bancarotta in quel paese per non pagare, diciamo, quanto doveva pagare in quell'altro paese. Sto molto semplificando, anche perché non maneggio bene, diciamo, i termini finanziari, questi argomenti, ma neanche quelli legali, soprattutto in un'altra lingua. Sì, poi sì, figuriamoci. Quindi, infatti, qua parla di questo fatto per sfuggire ai debiti, eccetera, eccetera. Quindi, Coa Capital, quindi rimaniamo che quindi entra nella Zaum questo il Mark Hombus, che prende un'altra quota dell'azienda, praticamente prende un'altra quota dell'azienda tramite una sua associazione della Zaum. E quindi ora come investitori ci sono, oltre, diciamo, al tizio grosso Margus Lini, ma è un pochino il Berlusconi del Baltico, ma neanche più di tanto. Praticamente, dopo questo, praticamente, che cacchio succede? Qua fa vedere che stavo cercando questo. Praticamente lui acquisisce tutta la quota di Carl Kender, praticamente. Però col tempo, diciamo, la quota di di Lilme aumenta, però dopo un po' entrano anche tutti gli altri, in quote più o meno eque, più o meno, così puoi vedere Kurwitz, Rostov e Kenders, più o meno. Non c'è un azionista di maggioranza, diciamo, nessuno supera il 50%. Solo che poi dopo un po' accade che tramite tutto un sistema particolare, anche tutto un un sistema, diciamo, a parte che si trasferiscono poi a Londra, perché comunque lì è molto più facile attrarre capitale, personale, comunicare, certo, con produttori e altro, quindi fondano anche lo studio, fondano quest'altra azienda parallela a Londra praticamente. E quindi buona parte di tutti si trasferiscono là e tutti quanti hanno il 20% di questa azienda in Inghilterra, hanno tutti il 20%, quindi di questi quattro che sono Gander eccetera eccetera, e c'è un 20% che appartiene, diciamo, che a questa cosiddetta Yes No Sir, appartiene da questa Anu Rayman. Chi è sta Anu Rayman? Che praticamente Anu Rayman è stata, diciamo, compagna dello zozzone di Tony Sabel. E dello zozzone, infatti qua si vede che stanno insieme praticamente. E praticamente lei riceve fondi tramite un'altra azienda che si è vista circa mezzo milione di dollari. E però la cosa che sembra sospetta è che praticamente mentre Tony Savell, diciamo non c'ha più una propria vera e propria quota, però lui è venuto poi e è diventato produttore esecutivo di Disco Elysium, quindi appare dipendente della Zaum. Tramite questo sistema di scatole cinesi sembra che comunque lui si intasca con chi dei soldi, diciamo, però in modo tale, in questo modo, diciamo, stealth, diciamo, in modo da non dover pagare quanto deve ai suoi debitori. Quindi già c'è sta cosa che puzza un po', ti pare? Sì, no, vabbè, comunque poi dopo ti faccio una domanda, però... Dimmi adesso. No, nel senso, no, è più una domanda conclusiva, che una domanda da fare poi dopo. Comunque sì, questa versione di Tiff, hai visto quando giocavi a Tiff, no? Che muovi nelle ombre, no? Sì. Vabbè, c'è sta cosa. Poi che succede? Che praticamente succede un pochino quello che è Nazio Serie, che Marcus Linman praticamente esce fuori, o meglio non esce fuori, però comunque vende praticamente tutta la sua quota a Ilmar Compus, e quindi che diventa con più del 60% diventa praticamente l'azionista maggioritario della ZAO. La cosa bella è che, diciamo, non è avvenuto tutto sembra in modo pulito, perché questo è uno dei pomi della discordia, perché si dice che tutta sta cosa l'abbia fatta abbastanza sotto banco, all'insaputa degli altri membri, quindi di Gurwitz e gli altri. È sempre dato un sistema di scatole con cui praticamente lui doveva versare tipo quasi 5 milioni di euro per acquisire tutta la quota del Berlusconi Estone. E praticamente lui ci ha messo $300,000 suoi, 1.300 l'ha chiesto in prestito, diciamo, a un'altra azienda che si chiamava tipo Disc Elysium, una cosa del genere, di cui però Kender, diciamo, era il detentore, che aveva fatto dare dei prestiti. Poi tramite un'altra azienda praticamente aveva acquisito per una sterlina la proprietà intellettuale su dei bozzetti della roba di un altro videogioco che si deve chiamare Pioneer, e poi ha praticamente rivenduto a sta Pioneer, che di cui faceva parte, diciamo, quote della Zaum, rivenduta a 4 milioni e mezzo di dollari, con cui proprio con questi soldi poi ci ha comprato tutta la sua quota, diciamo, tutto un sistema strano per praticamente farsi prestare soldi e praticamente comprare, con cui poi ha reintegrato sia i suoi soldi, i suoi 300.000, sia i 1.500 che si era fatto prestare, i 1.300 non ricordo. E praticamente sembra che praticamente con una sola sterlina si è comprata tutto il resto delle azioni, è diventato azionista di maggioranza della ZAO. E sta cosa non è piaciuta tanto agli altri, soprattutto perché, ripeto, Ilmar, vedremo nell'intervista, andiamo un po' più avanti, dice che in realtà lui ha detto tutto eccetera eccetera, anche perché a un certo punto viene creata questa nuova azienda che si chiama Disco Elysium 2 per depositare la proprietà intellettuale di un eventuale seguito, in cui praticamente lui è solo un azionista minore, cioè di nuovo il Berlusconi di azionista minore, e il resto era diviso più o meno equamente con Gurwitz e gli altri. E perché comunque doveva essere un progetto pluriennale. Marcus Lin mi ha detto: ok, ti prendi tutta la mia quota, però io voglio continuarci a campare. Ah, e c'è pure giustamente la moglie dello Zozzone, la compagna dello Zozzone che continua a guadagnare soldi. Salutiamo lo Zozzone comunque. Però a parte questo, dopo questo iniziano comunque i dissapori e poi vengono allontanati, ripeto, Kurbitz, Rostov e Indver. La scusa principale, ripeto, è che infatti, come si dirà qua nell'intervista, diciamo, ecco, questa è l'intervista che fanno il Mark Campos, che intervista piuttosto sterile, nel senso che quando gli chiede sempre: ok, ma tutti ste ci sono dei documenti che manifestano, tu stai dicendo che gli altri sapevano tutto, sapevano di questa acquisizione eccetera eccetera, che ti volevi pappare tutta la fettata grande della torta, ma gli altri dicono che non sapevano un cazzo. È vero, ho detto no, sapevano tutto, ma ci sono dei documenti, comunque vabbè, eravamo tutti tra amici, quindi abbiamo fatto cose molto così all'informale, così è una cosa un po' sospetta, perché comunque questo comunque è un imprenditore, un investitore navigato a fare le cose così un tanto al chilo, ma sì, volemo se bene, è un po' sospetto, diciamo. E lui, ogni volta che gli viene chiesto ok, ma c'è, esistono dei documenti e poi dice quelle cose, no, non posso, però quando gli viene chiesto ma perché allora è allontanato, inizia, è proprio chiaro e dettagliato, ci dice comunque che è uno dei comportamenti tossici, che praticamente loro servono preso inizialmente dopo la pubblicazione del disco Elysium, e mentre doveva essere era in lavorazione la Director's Cut, oppure la Final Cut, scusate. Loro, con la scusa di prendersi un periodo di pausa, si sono presi praticamente 2 anni di pausa, quindi non hanno fatto più un cazzo e hanno lasciato al resto di quelli che gli era rimasto alle persone che erano rimaste di accollarsi tutto praticamente, però prendendosi comunque loro i meriti di tutto, perché comunque nella Final Cut come scrittrice principale viene considerata Elaine Hindberg, in cui sia lui sia altre persone che intervistate dice che non abbia fatto quasi un cazzo praticamente, e oltre a questo, quindi comportamenti tossici. Però dopo viene uno che viene spiegato, che ci spiega, diciamo, un'altra persona che ci spiegherà, un altro dipendente nonché membro originale degli Overcoats proprio agli albori, e quindi amico di lunghissima data di Kurbitz e gli altri, dice che probabilmente c'è, cioè, come comportamenti tossici, il fatto che comunque soprattutto Kurbitz è una persona che è molto, diciamo, molto carismatica, molto però accentratrice, molto, volendo usare un termine che non mi piace usare, diciamo, molto narcisista, non mi piace usare, per far capire la situazione, di tipo super artistoide, che ti rispondeva a cazzo dei cane, che gli piaceva, diciamo, avere quei 3-4, la corte di quei 3-4 intorno che avevano tutti i diritti. Vabbè, altri, comunque alla fine è narcisismo, sì, pure sì, quello, sì. No? Non è che... se non mi fai un test, io non ti dico che è narcisismo. Comunque. Ma che cazzo significa? No, non si può dire agenda, tu sei narcisista. No, no, non devi essere delle, certo, valutazioni che... affidabili. Vabbè, non stiamo parlando di psichiatria. Infatti. E quindi la gente magari non... Come tossico gli viene additato il fatto che di non aver avuto tatto, diciamo, quando tipo mi diceva, gli devo un parere, diceva, ma che è sta merda, ma che cazzo è combinato, cioè, e comunque, diciamo, di avere comunque questo, diciamo, inner circle di eletti, e gli altri trattava abbastanza una merda, diciamo così. Questo, diciamo, e questa è una cosa che è stata riportata anche da altri dipendenti che poi hanno voluto parlare, cioè, non sono emersi pure. Ma la cosa più grave è pure che il capoccia qua che stiamo vedendo aveva accusato di aver tentato di sottrarre la proprietà intellettuale di Disco Elysium, però dall'altra parte, se andiamo a vedere poi magari più avanti l'intervista che fanno proprio a Kurbitz e gli altri, loro dicono che comunque erano abbastanza degli sprovveduti, diciamo, quindi quando gli è stato offerto il fatto, riassumendo, è stato un po' più complesso, quando hanno dovuto firmare per la proprietà intellettuale, diciamo, loro si sono fidati, diciamo, perché hanno detto vabbè, facciamo proprietà intellettuale per un tot anni, poi ritorna a voi, e loro, diciamo, diciamo, se siamo stati sprovveduti, non ci siamo consultati con avvocati, abbiamo accettato, però sta cosa comunque non gli stava bene, perché comunque è tutta creazione nostra che venga, diciamo, requisita totalmente dal capoccia. Non gli è parsa una bella cosa. Poi c'è sta un'altra, questo qui è, si chiama Argo Tulik, una cosa del genere, e questo qui comunque è l'altro amico di lunga data di Gurbitz, che anche lui è diventato comunque dipendente della ZAM, quindi ci ha lavorato molto sul gioco, e soprattutto lui riferisce questo fatto che comunque è una persona molto carismatica, e lui in gioventù, diciamo, era molto, diciamo, quasi un sottoposto, cioè era quasi invischiato, comunque, cioè, si è fatto molto risucchiare da questa, diciamo, questa figura carismatica di Gurbitz, e la moglie un pochino allontanata. E poi, diciamo, quando sono ritornato, hanno iniziato a lavorare sul gioco, anche perché mi sa che vivevano un pochino tutti insieme, o comunque vivevano tutti quanti vicini, di nuovo iniziato, diciamo, a sviluppare questa quasi rapporto tossico di quasi sudditanza, diciamo, con Gurbitz, anche se lui riferisce che è una persona carismatica e tutto, ma a livello di leadership, cioè, non è cosa sua, cioè, anzi è una persona che creava molti dissapori all'interno della compagnia. E soprattutto, cioè, la cosa principale è che dopo il periodo di pesante crunching fino alla pubblicazione del gioco, lui, Gurbitz e gli altri hanno chiesto un periodo, diciamo, di sabbatico di qualche mese, che nel frattempo si è trasformato in diversi mesi, che si sono trasformati in due anni, mentre venivano comunque ancora pagati. E in questo periodo, come emerge pure dall'intervista di questi altri dipendenti, erano stati un pochino richiamati perché stavano cercando comunque di partire loro con un loro progetto parallelo, comunque, cioè, stavano prendendo tempo, Gurbitz, per fare un pochino lo zozzone lui a sua volta e partire lui con un suo progetto, e cercando di richiamare pure alcuni dei dipendenti per che si stavano ammazzando a fare la director's cut. E sta cosa comunque desta molti sospetti pure da quest'altro punto della barricata. Ma la cosa più grave è che a un certo punto Gurbitz ha chiesto a uno dei dipendenti di passargli così in amicizia il codice sorgente di Disco Elysium. Cosa che, vabbè, non è. Ecco, vi faccio vedere dove sta. Aspetta, cioè, ecco, è questo qui, perché sta questo. Che qua nell'intervista dice: ma hai chiesto una cosa che non posso dire. Mm-hmm. E poi, diciamo, il giornalista ha detto: sì, comunque la cosa è emersa. Lo diciamo noi, gli ha chiesto il codice sorgente. Che, vabbè. Tra l'altro, vedi qua, addirittura su Time è comparso di Disco Elysium, quindi tanta roba. Che poi non pensavo. Poi c'è l'intervista, diciamo, al nucleo creativo, diciamo, che riassumendo un pochino, diciamo, che addirittura si sono sentiti traditi, perché comunque tutta sta cosa non era vero, che non è stata alla luce del sole, non erano stati comunque contattati, non erano stati avvisati che il capoccione Compus si era acquisita, praticamente era diventato azionista di maggioranza, e soprattutto aveva accusato loro di aver preso i contatti con altre aziende, con la Ubisoft, in particolare anche con la Larian, quella lì di Divinity e sì. Di Baldur's Gate, quando loro ammettono, dicono: ma in realtà, cioè, ci siamo intravisti sempre nelle conferenze, eccetera, eccetera, negli eventi, però non abbiamo avuto mai niente davvero a che fare, cioè, non ci sono documentazioni, e stesso loro, cioè, non ci conoscono più di tanto, eccetera, eccetera. E, però rispondono, cioè, alle accuse del fatto che, vi sono state dette che comunque vi siete allontanati, che state facendo i cazzi vostri, eccetera, eccetera, che è un comportamento di merda. Ha risposto: oh, no, è gomblotto, ci vogliono rubare le piste, cose qua. Non sono mai entrati, a loro volta, non sono mai entrati in merda in queste loro accuse. Sto davvero riassumendo molto, perché davvero, cioè, il video c'è, è lungo che è lungo, però comunque c'è anche, diciamo, il, cioè, ci sono anche i sottotitoli in italiano, che sono una traduzione di quelli là, in inglese. Certo. Sì, sì, sono una traduzione di quelli inglesi realizzati ad hoc. Cioè, vabbè, ma tutto lo sei visto in inglese, quindi. Sì, lo sono visto in inglese, però sono meravigliosi a un certo punto, perché ripeto, quando si dice che nel, cioè nel video dicono che hanno smesso di lavorare, diciamo, they stopped working, nella traduzione dice hanno smesso di funzionare. Che ci sta, ci sta. Sì, ci sta, ci sta. Forse se Google assimilasse DeepL, probabilmente sta cosa non succederebbe. Sì. Ripeto, questo è già davvero un pochino il succo di sto video, che ripeto, parecchie cose può darsi pure che non ho capito un cazzo, poi qua va nei dettagli anche negli scambi di email eccetera eccetera, vabbè, un lavoro estremamente maniacale, estremamente maniacale, estremamente, cioè davvero il plauso davvero a questo loro che hanno fatto. Ho visto anche altri video, loro fanno davvero delle inchieste giornalistiche videoludiche davvero di serie A. Certo. E anche su altre tematiche, altre cose molto molto interessanti. Non so se si è capito qualcosa. No, non si è capito, niente. Però poi alla fine, cioè, riassumendo, sono accuse ci sono accuse reciproche di comportamenti scorretti, sia di approvazione indebita di cosa, però comunque tutti loro sembra che avessero comunque un'altra agenda, diciamo una seconda agenda con cui si stessero un pochino, cioè un pochino quello che non viene mai davvero chiarito ed è molto nebuloso, perché il capoccia di Zaumo dice che dopo che ha sgamato, che hanno provato a far, diciamo, appropriarsi dell'IP eccetera eccetera, li ha allontanati, invece lo Kurwitz e gli altri dicono no, noi siamo stati allontanati quando abbiamo sgamato che c'era stata questa acquisizione, gli abbiamo chiesto i documenti finanziari e ci ha fatto, cioè, ci ha salutato praticamente. Capito, come sempre, come nelle migliori delle cose, le cose più paradigmatiche, la verità sta nel mezzo. Ma forse, diciamo, comunque ancora non è ancora ricostruita, perché, diciamo, la realtà giudiziaria è ancora incompleta, perché ripeto, ancora non si è espresso, diciamo, il giudizio. Ecco, poi questa dopo un po' uscì sta patch, questa modalità collage, che fu davvero, diciamo, blastata dagli appassionati, e per loro è stato davvero il sintomo principale che si erano votati all'ipercapitalismo, che hanno fregato dei poveri artisti che volevano fare. Beh, diciamo che è un po' cioè, diciamo, la trama, diciamo, vorrebbe essere quella del solito gruppo artistoide, insomma, creativo, che poi viene inculato perché c'è sempre qualcuno che manovra i soldi e vede più il discorso della parte economica piuttosto che di tutto il resto, no? Poi appropriazione, cioè, nel senso, alla fine, se tu ci ragioni, un gioco come Disco Elysium, che non ti poteva dare l'impressione che muove tutti sti capitali, no? Che ci fossero tutti sti interessi dietro, no? Quindi alla fine la domanda è: quantità di persone che ci hanno lavorato, ma sono state spremute? Sì, sì, no, ma questo ok, però dico, nel senso, secondo te, cioè, come sei arrivato a questo? Cioè, che idea ti sei fatto tu di tutta questa storia? Perché poi alla fine, se noi la guardiamo dal nostro punto di vista, che è quello dell'utente, del giocatore, ecco, diciamo, del videogiocatore, per noi è una perdita, quasi perde un patrimonio, no? Una risorsa incredibile che avrebbe potuto portare a tante altre. Perché c'erano idee per almeno altri due giochi, e ripeto, avevano creato questa una società ad hoc per depositare l'IP per una nuova, per un seguito, in cui non ho capito bene, mi pare che comunque sia ancora, cioè esista ancora, e parte dei capitali siano ancora, cioè, e più o meno equamente divisi tra tutti, diciamo, i principali, diciamo, protagonisti di questa vicenda. Ma la conclusione che mi sono fatto è che, cioè, l'essere umano è complesso, diciamo. Per quanto tu vuoi fare l'artistoide votato a una certa ideologia e altro, quando ci sono in mezzo altri interessi, altre cose che non puoi controllare, viene comunque travolto un pochino dagli eventi, dalle occasioni, dalle situazioni. Poi ripeto, io non mi bevo totalmente la narrativa del capitalista cattivo, e non mi bevo neanche totalmente la narrativa degli artisti che... dei poveri artisti che sono stati defraudati. Sì, sì, sì. Sì, infatti. Oppure? Oppure? Niente. Finisci la frase. Non mi bevo pure neanche la cosa del fatto che erano... Niente, mi sono dimenticato il cazzo. Vabbè, ok. Comunque, diciamo che cioè, la tua percezione comunque a livello proprio artistico, videoludico, patrimoniale, cioè nel senso è una perdita importante. È una perdita, però a un certo punto di vista, da un certo punto di vista romantico, come le migliori cose, dice Disco Elysium è un unicum. Ebbene, cioè, va bene, anche se rimane sì, sì, ma io sono abbastanza convinto e ho già la percezione che sia così in alcune cose che stanno uscendo, che comunque come tutti gli elementi di rottura lasciano un segno importante e in qualche maniera sì, diciamo, anche se in maniera più moderata, sparpagliati nei vari titoli che stanno uscendo, comunque secondo me la legacy di Disco Elysium la vedremo, insomma, in qualche maniera. Sì, sì. Aspetteremo forse a sua volta che l'eredità, diciamo, il seguito, non il titolo, diciamo, che erediterà, diciamo, metterà sul gruppone. Cioè, si prenderà sul gruppone l'eredità di Disco Elysium, chissà se e quando uscirà. Sul gruppone, va bene ragazzi, io direi che prima di fare una conclusione vi ricordo che domani sera 27 giugno ci sarà questa meravigliosa live sul canale di Archeologia Informatica, quindi andate su YouTube sul canale di Archeologia Informatica e cercate ovviamente, insomma già trovate lì la posizione dove c'è la possibilità di mettere il reminder per la diretta. Invece sul canale YouTube di Runtime Radio venerdì 30 alle ore 21:30 ci sarà questa bellissima live con Olivia e Marco, insomma, dove faranno il loro show, insomma, del tutto personale, parleranno di Memento, insomma, no, bellissimo, il film di Nolan, assolutamente secondo me è una live da non perdere nel modo più assoluto, assolutamente. Vi ricordo anche che Runtime Radio, quindi Dietrologia Videoludica, Ludico Forum, Archeologia Informatica e tutti i progetti annessi e connessi fanno parte comunque del grande progetto di Runtime Radio, che in questo momento, come spesso, come sempre, diciamo, ha bisogno del sostegno di un aiuto da parte di tutti, qualora ovviamente sia possibile, soprattutto in questo momento dove ovviamente c'è una guerra in atto importante, perché il mondo del podcast si sta trasformando nel modo sbagliato secondo noi, e ovviamente ne pagano le conseguenze quelle realtà più sempre indipendenti, sempre per colpa dei capitalisti cattivi, esatto, in particolare poi nel senso, in questo caso è veramente il caso di dirlo. Vi ricordo invece che lunedì prossimo ci sarà un'altra live sempre qui su Dietrologia Videoludica e non ricordo su che cosa, quindi è inutile stare a discutere. Francesco, come chiudiamo? Chiudiamo dicendo che al di là di tutte queste vicende che da un certo punto di vista rendono ancora più affascinante, diciamo, quello che è discredito, perché tutte queste vicende umane, perché arricchiscono tutta la lore, diciamo, del gioco, e che sarebbe quasi una perdita, diciamo, non conoscerle tutte queste, quindi certo. Ho cercato di dare i miei 2 centesimi male, però nel limite delle mie possibilità. L'importante è farlo male, facilitare, ma... a restituire questo documento importante, certo, no, questo è importante, che comunque sarebbe stato comunque difficile seguire 2 ore e mezza. Sì. Consiglio comunque a chi può, comunque chi può. Che questa sì. Cioè, anche perché poi uno se lo guarda spunto, un po' per volta, cioè nel senso, non è detto che te lo devi guardare, sì, assolutamente tutto. Io non sono riuscito a guardarlo tutto in una volta, certo, anche perché è un film praticamente, cioè, nel senso, sì. Magari ho provato a giocarmi pure la carta, ma me lo vedo a 2 perle, però poi ti perdi, cioè è talmente denso di informazioni, certo, contenuti, devi stare là attento, prendere appunti quanto possibile. Anche se però io ho lasciato molte cose, avrò detto sicuramente molte imprecisioni, ma voleva essere esaustiva. Noi volevamo raccontare, fare una chiosa su un problema che c'è stato, che oramai conosciamo, di cui se ne parla, e magari ecco, in Italia forse se ne parla di meno, E allora volevamo un attimo fare un po' il quadro, no? Cioè cercando di dare quello che è ovviamente la nostra visione su quello che ovviamente è insomma l'informazione che ci abbiamo connesse, cioè il fatto che comunque poi stiamo parlando sempre di questioni tecniche, non soltanto filosofiche ma tecniche e anche legali, e soprattutto in un'altra lingua, sì. Insomma, quindi ci vuole un po' un'altra lingua, e con io che ripeto non è mia competenza, cerco di dire al meglio. Se fosse stato una cosa psicologica avresti capito meglio, dici. Faccio rugazze, la va bene. Comunque a me mi dispiace, perché poi in realtà io fra qualche anno, non subito, però fra qualche anno l'avrei giocato un altro disco Elysium. Cioè un altro disco Elysium, nel senso un altro gioco in quel modo lì. Che poi sì, proprio l'impatto psicologico è, cioè il fatto che il disco Elysium ti succhia, ti trascina nel suo baratro incredibilmente, e lo fa proprio con una certa disinvoltura, nel senso che alla fine ci devi stare, insomma. Va bene ragazzi, chi ha ascoltato durante questa live lo ringraziamo, chi ascolterà e vedrà insomma questo video su Dietrologia Videoludica, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella e mettete like, commentate, magari fateci sapere anche la vostra, e soprattutto nei prossimi giorni, insomma da domani, dopodomani ci sarà anche la versione in podcast su Ludico Forum, anche lì insomma se volete condividetelo, e soprattutto fateci sapere che cosa ne pensate, se volete magari approfondire il discorso con noi, magari torneremo poi a parlarne successivamente. Quindi per quanto riguarda questo canale ci vediamo lunedì prossimo, e invece noi con Archeologia Informatica ci vediamo domani sera. Francesco, ciao. Simone, ciao e grazie di tutto. Sempre un piacere. Soprattutto fate donazioni, perché dobbiamo comprare il microfono a Francesco. Te lo compro da solo, tranquillo. No, perché scusa, Runtime è qui anche per questo. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.